che cosa vogliono da noi. Che cosa vogliono da noi. Vagheggiano impelati contro gli atti carnali. Che cosa provano i pianisti quando rincorrono le note? Cosa confonde i chitarristi di cui da in strada ignote? Che cosa spinge le balene nelle correnti in fondo ai mari? Ai metter canti di sirene nei loro itinerari all'unisono. All'unisono. E forse sono suoni codice, messaggi da città. Speranze per il mondo, all'apice. Che cosa provano i ragazzi un po' scontrosi a 18 anni, sentendosi forse un po' pazzi, vivendo di momenti? Che cosa scrivono sui muri quando si sentono lontani dagli stereotipi un po' duri dei cosiddetti sani? E si scoprono, si conoscono, e forse sono unico di te, messaggi da città, satelliti, speranze per il mondo, alla fine. Che cosa vogliono da noi? Preti, sorelle, cardinali, quando vagheggiano imbellati contro gli atti carnali. Che cosa spinge i nostri sensi ad incontrarsi per amare, unendo i nostri uguali sessi, cosmania di godere all'unisono.